Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. La mattina seguente ci mettemmo al lavoro di buon'ora, perché il trasporto di tutto quell'ammasso d'oro, quasi per un miglio di terra fino alla baia e di lì per 3 miglia di mare alla Hispaniola, era impresa considerevole per un così piccolo numero di persone. I 3 ribelli ancora vaganti per l'isola non ci davano grande pensiero. Una sola sentinella appostata sulla spalla del monte bastava a garantirci da ogni improvvisa aggressione, e ritenevamo del resto che di combattere dovessero averne fin sopra i capelli. Il lavoro fu quindi portato avanti alacremente. Gray e Ben Gunn andavano e venivano con la lancia, mentre i rimanenti, durante la loro assenza, accatastavano il tesoro sulla baia. 2 dei lingotti, appesi per una fune, costituivano un buon carico per un adulto, e ancora doveva contentarsi di camminare lentamente. Dal canto mio, essendo poco assuefatto a portar pesi, rimasi tutto il giorno occupato nella grotta a imballare le monete nei sacchi del pane. Erano una bizzarra collezione, analoga a quella di Billy Bones per la diversità dei coni, ma tanto più vasta e tanto più svariata, che credo di non essermi mai tanto divertito quanto a catalogarle. Monete inglesi, francesi, spagnole, portoghesi, Giorgi e Luigi, dobloni e doppie guinee, moidori e zecchini, con i ritratti di tutti i sovrani d'Europa degli ultimi 100 anni. Strane monete orientali, con impressi disegni che parevano matassine di cordicelle o frammenti di ragnatele. Pezzi tondi, pezzi quadri e pezzi forati al centro, come se fossero da portare al collo. Credo non ci fosse varietà di moneta al mondo che non avesse trovato posto in quella collezione, e per il numero erano tante, quante le foglie d'autunno, che mi doleva la schiena dal gran curvarmi e le dita dal gran scegliere. Un giorno dopo l'altro seguitò questo lavoro. Ogni sera un patrimonio era stivato a bordo, eppure ve n'era sempre un altro in attesa per l'indomani. E per tutto quel tempo i 3 ribelli superstiti non si fecero vivi. Finalmente, e mi pare che fosse la terza sera, il dottore ed io stavamo passeggiando sulla spalla della montagna, nel punto in cui domina le paludi dell'isola, quando dalla fitta oscurità delle basse il vento ci portò un frastuono di grida e di canti. Non fu che una folata che ci giunse, seguita dal silenzio di prima. «Dio ne abbia misericordia», disse il dottore. «Sono gli ammutinati». «Tutti ubriachi, signore», intervenne la voce di Silver dietro di noi. A Silver, devo dire, era concessa la massima libertà, e malgrado i quotidiani rimbrotti sembrava si considerasse di nuovo come un privilegiato e amichevole dipendente. Ed era veramente notevole come sopportava bene quei rimproveri e con che imperturbabile educazione seguitava a sforzarsi di entrare nelle grazie di ognuno. Eppure nessuno lo trattava meglio di un cane, salvo Ben Gunn, che continuava ad avere una fifa nera del suo antico timoniere, e io, che avevo davvero qualche motivo di essergli grato, quantunque proprio a questo proposito io avessi ragione di pensarne anche peggio di chiunque altro, perché lo avevo visto meditare un nuovo tradimento sull'altipiano. Di conseguenza, fu in tono agro che gli rispose il dottore. «Ubriachi o in delirio?» «Avete ragione, signore», rispose Silver, «il che fa ben poca differenza, sia per voi, sia per me. Suppongo che non vi azzarderete a chiedermi di considerarvi come un uomo pietoso», rispose il dottore con un sogghigno. «E così può darsi che i miei sentimenti vi sorprendano, Mastro Silver. Ma se fossi sicuro che delirassero, come sono certo che almeno uno di loro è prostrato dalla febbre, abbandonerei questo campo e a qualsiasi rischio della vita porterei loro il soccorso della mia professione». Thank you. Vi chiedo scusa, signore, ma avreste torto marcio, rispose Silver. Ci lascereste sicuramente la vostra preziosa vita. Io sto dalla parte vostra adesso, in tutto e per tutto, e non vorrei vedere il nostro partito indebolirsi privo di voi, sapendo, come so, quanto vi devo. Ma quegli uomini laggiù non saprebbero mantenere la loro parola, no, nemmeno se lo volessero. E peggio ancora, non potrebbero credere che manterreste la vostra. Già, disse il dottore, siete voi quello che mantiene la parola, si sa. Furono pressoché le ultime notizie che avemmo dei tre pirati, quelle. Solo una volta udimmo, a grande distanza, una fucilata, e supponemmo che stessero cacciando. Si tenne consiglio e fu deciso che li avremmo abbandonati sull'isola, a gran gioia, devo dirlo, di Ben Gunn e con la completa approvazione di Gray. Lasciammo loro una buona provvista di polvere e palle, l'ammasso delle carni di capra salata, un po' di medicine e qualche altra cosa di prima necessità, arnesi, abiti, una vela di ricambio, qualche braccio di fune e, per desiderio speciale del dottore, un ragguardevole dono di tabacco. Fu questa, all'incirca, la nostra ultima operazione sull'isola. Prima di compierla, avevamo stivato il tesoro, imbarcato acqua a sufficienza e il resto della carne di capra per ogni evenienza, e finalmente, un mattino di bel tempo, salpammo l'ancora, impiegandoci tutte le nostre forze, e uscimmo dalla baia nord, battendo la stessa bandiera che il capitano aveva spiegato e sotto la quale aveva combattuto al fortino. I tre dovevano averci spiati molto più da vicino che non pensassimo, come dimostrarono i fatti, perché dovendo accostare a grande prossimità della punta nord, uscendo dallo stretto, li vedemmo tutti e tre inginocchiati insieme su una lingua di sabbia, con le braccia alzate, a supplicare. Piangeva il cuore a tutti, credo, ad abbandonarli in quel miserevole stato, ma non potevamo correre il rischio di un nuovo ammutinamento e riportarli a una forca in patria. Non sarebbe stata una gran carità. Il dottore diede loro una voce e li informò delle provviste che avevamo lasciato e di dove le avrebbero trovate. Ma essi continuarono a chiamarci per nome e a supplicarci, nel nome di Dio, di aver compassione e non abbandonarli a morire in un simile luogo. Alla fine, vedendo che la nave proseguiva il suo corso e ora stava avviandosi rapidamente fuori portata di voce, uno di loro, non so chi, balzò in piedi con un urlo selvaggio, puntò il moschetto e fece fischiare una pallottola sulla testa di Silver e attraverso la vela maestra. Dopo quella ci tenemmo al coperto dei parapetti e quando guardai fuori di nuovo erano scomparsi dalla striscia di sabbia e la striscia stessa era quasi svanita con l'aumentare della distanza. Questa fu almeno la fine della cosa e prima di mezzogiorno, con mia indicibile gioia, il più alto picco dell'Isola del Tesoro era stato ingoiato dal cerchio azzurro del mare. Eravamo così scarsi di equipaggio che ognuno a bordo doveva dare una mano, a eccezione del capitano, che disteso su un materasso a poppa dava gli ordini perché, sebbene molto migliorato, aveva ancora bisogno di riposo. Volgemmo la prua verso il porto più vicino dell'America Latina, perché non potevamo rischiare la traversata di ritorno senza rinforzare l'equipaggio, e in quelle condizioni, col vento contrario e un paio di burrasche, eravamo tutti stremati. Quando vi arrivammo. Fu proprio sul tramonto che gettammo l'ancora in un bellissimo golfo abbracciato dalla terraferma e fummo immediatamente circondati da imbarcazioni da costa gremite di neri, indiani del Messico e mulatti che vendevano frutta e verdure e offrivano di tuffarsi per qualche spicciolo. La vista di tante facce ridenti, specialmente quelle dei neri, il sapore dei frutti tropicali e soprattutto le luci che cominciavano a brillare nella città componevano il più simpatico contrasto con il nostro tetro e sanguinoso soggiorno nell'isola. E il dottore e il cavaliere, prendendomi con sé, sbarcarono per passare a terra la serata. Lì incontrarono il capitano di una nave da guerra inglese. Attaccarono discorso con lui, salirono a bordo della sua nave e per farla corta ci si trovarono così bene che l'alba spuntava quando ci riaccostammo alla Hispaniola. Ben Gunn si trovava solo sul ponte e non appena fummo a bordo cominciò con le più comiche contorsioni a farci una confessione. Silver era fuggito. L'abbandonato aveva contribuito alla sua fuga in una imbarcazione della costa poche ore prima e ora ci assicurava di essersi comportato così soltanto per salvare le nostre vite, che certo sarebbero state compromesse se quell'uomo da una gamba sola fosse rimasto a bordo. Ma non era tutto. Il cuoco di bordo non se n'era andato a mani vuote. Inosservato, aveva praticato un foro in una paratia e aveva asportato uno dei sacchi di monete del valore di 300 o 400 guinee per scorta alle sue future peregrinazioni. Credo che fummo contenti di essercene liberati così a buon mercato. Finalmente, per abbreviare una storia già troppo lunga, prendemmo a bordo alcuni marinai, facemmo un'ottima traversata e giungemmo a Bristol proprio quando il signor Blandley cominciava a pensare di dover armare la sua nave di appoggio. Soltanto 5 degli uomini che ci si erano imbarcati tornavano indietro sulla Hispaniola. Bere e il demonio avean fottuto il resto. E in che modo? Quantunque, bisogna riconoscerlo, non ci fossimo ridotti all'estremo come quell'altra nave nella quale cantavano con uno solo della ciurma vivente che avea imbarcato con 75. Ciascuno di noi ebbe una parte abbondante del tesoro e la adoperò saggiamente o follemente a seconda della propria natura. Il capitano Smollett ha ora smesso di navigare. Gray non soltanto mise da parte il suo denaro, ma colto improvvisamente dal desiderio di un avanzamento professionale, si diede allo studio ed ora è secondo su una bella barca ottimamente attrezzata, di cui è comproprietario. In più è sposato e padre di famiglia. Quanto a Ben Gunn, gli toccarono 1000 sterline, che spese o dissipò in 3 settimane, o per essere più esatti in 19 giorni, perché il 20° si presentò a bussare moneta. Infine gli è stato dato un posto di portinaio, proprio come aveva temuto sull'isola, ed è tuttora vivo, ben voluto e un po' zimbello dei ragazzi di campagna, nonché distinto cantore in chiesa le domeniche e ricorrenze festive. Di Silver non si è saputo nulla. Quel formidabile uomo di mare da una gamba sola è finalmente scomparso in modo definitivo dalla mia vita. Ma io credo che abbia ritrovato la sua donna nera e forse vive ancora felice con lei e il capitano Flint. Così almeno conviene sperare, perché le sue prospettive di benessere nell'altro mondo mi paiono assai scarse. I lingotti d'argento e le armi si trovano ancora, a quanto so, dove Flint li ha sotterrati. E per conto mio ci possono restare. Nemmeno 10 paia di buoi mi riporterebbero a quell'isola dannata. E i peggiori sogni che abbia mai avuto sono quando sento i marosi tuonare lungo le sue coste, o balzo a sedere sul letto con la stridula voce del capitano Flint, che tuttora mi risuona alle orecchie. Pezzi da 8, pezzi da 8, pezzi da 8, pezzi da 8, pezzi da 8, pezzi da 8, pezzi da 8. Sono Daniele Gorré e riprendo la mia chiacchierata sull'Isola del Tesoro di Stevenson. La domanda che mi sono fatto rileggendo il libro è questa: come può essere che un testo ambientato tra i pirati un po' gaglioffi, un po' pasticcioni del Settecento è scritto più di 100 anni fa, più di 120 anni fa, parliamo appunto del 1881-83, quindi 120 anni fa, susciti ancora tanto piacere a noi, scafati lettori del XXI secolo. E perché a tanti anni dalla sua lettura, fatta per lo più da adolescenti, le immagini del libro sembrano conservarsi come ancorate nel profondo mare della nostra memoria. E per queste domande conosco due tipi di risposte, una semplice e una complicata. La risposta semplice e liquidatoria, perché quella del nostro autore è grande arte, è arte di classico. La risposta complicata, perché la sua non è una scrittura veristica, ma semmai morale, simbolica, onirica, evocatoria, sempre in bilico tra novel e romance. Scrittura morale, innanzitutto. Il libro, che a suo parere fu perfino accusato da qualcuno di essere moralmente irresponsabile e quindi inadatto ad un pubblico di giovanissimi, è in verità tutto tramato su una geometria, o se si preferisce su una logica morale, al punto che questa logica intacca la lingua stessa parlata dai personaggi, e che vengono divisi nei loro dialoghi tra chi parla e quindi pensa e quindi agisce bene, correttamente, e chi parla e quindi pensa ed agisce male, scorrettamente. Con, non a caso, Silver, il pirata Silver, in posizione anche qui molto ambigua. E poi scrittura simbolica. Al di là del facile simbolismo dell'isola da raggiungere come maturità da conquistare per il ragazzo, se, come scrisse Stevenson, la narrativa è per l'adulto ciò che il gioco è per il bambino, il risultato sarà quell'effetto di realismo irreale per cui il paesaggio, l'immagine, la visione, l'allucinazione acquistano naturalmente lo spessore vago ma insieme molto corposo del simbolo. I luoghi e i personaggi del libro resistono dentro di noi come certi paesaggi o certe persone conosciute nell'infanzia e non più cancellabili, ma al contrario capaci di lievitare, di trasfigurare i loro tratti col passare degli anni. Gli incontri con le cose e con gli uomini restano tatuati nella mente dell'adolescente Jim e di noi adolescenti lettori o eterni adolescenti in quanto lettori, un po' come quegli straordinari disegni sul corpo dei suoi pirati, ciascuno accompagnato da una scritta, per esempio Buon Vento, oppure La Fortuna, oppure ancora Bill Bones se ne infischia. Perché è proprio nei dettagli che il romanzo è indimenticabile. Chi potrà scordare, per esempio, quel pezzo di parmigiano prodotto in Italia, precisa il testo, nascosto nella tabacchiera del dottore? O come dimenticare l'ossessiva ripetizione della stessa canzone? 15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum. Quasi una mise en abîme dell'intera storia. O come non restar segnati dall'andamento onirico del capitolo dedicato alla sortita notturna di Jim in mare, diretto verso la nave ispagnola. A questo riguardo mi permetto un consiglio per chi si appresta a leggere o a rileggere questo libro. Che assolutamente non si saltino le parti descrittive, per puntare solo sui dialoghi e sul procedere rapido della narrazione. In questo caso il romanzo non sarebbe soltanto molto più breve, sarebbe anche molto meno bello. Thank you. Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Edizione Einaudi. Traduzione di Pietro Jaillet. Postfazione di Daniele Gorré. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.